hai pensato tu? Hai deciso il posto mio? Io non so se questo è amore, ma non è per me. No, non puoi decidere di amare. L'amore accade e anche se tu non lo vuoi, improvviso come il vento ti trascina via. C'ero mai.